Ti ho visto un di passare, tu stavi stretto a lei, ma il volto ti arrossì sentendoti guardare. Tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare. Non devi piangere più, se lei ti vuol lasciare. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord. Se hai freddo il cuor, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord. Tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, milord. I tipi come te si trovano prima o poi, coi tipi come me. Non domandare a me perché ti voglio qui, ti posso consolare se dici solo un sì, e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà. Poiché d'amore mai nessuno morirà. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord. Se hai freddo il cuor, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord. Tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, milord. I tipi come te si trovano prima o poi, coi tipi come me. Love!